pomeriggio a tutti e a tutte, le 14 e un minuto primo. Questa è Visionari, il consueto appuntamento con il cinema. Come ogni giovedì dalle 14 alle 15, per informazioni comunque potete consultare la scaletta sul sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Lì troverete gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione e poi link per dare un'occhiata alle nostre recensioni e poi altri suggerimenti per quanto riguarda i film su piccolo schermo, per quanto riguarda la settimana della programmazione televisiva. Allora, cominciamo subito dagli ospiti per quest'oggi. E poi, se ce la faremo, credo proprio di sì, parleremo anche delle uscite di questo fine settimana. Bene, siamo riusciti a contattare Angelo Signorelli, direttore del 27esima edizione del Bergamo Film Meeting, e dovrebbe avere raggiunto la sua postazione. Pronto? Pronto? Eccoci qui. Sì. Allora Angelo, intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, abbiamo finalmente, siamo riusciti in questo collegamento, Bergamo Film Meeting, 27esima edizione dal 7 al 15 marzo, in pieno svolgimento. Raccontaci un po' come sta andando. Beh, il festival sta andando molto bene, le scelte che sono state fatte dalla retrospettiva di Carol Reed all'omaggio a Bette Davis, al concorso, alla sezione documentari e alcune piccole sezioni che abbiamo inserito nel programma, tutte le proiezioni comunque riempiono la sala, quindi siamo molto contenti di aver scelto le cose giuste per un pubblico appassionato e come quello che segue il Bergamo Film Meeting. Bene, una lunga storia. Come si è sviluppato e si è evoluto nel tempo questo festival? Sì, come dicevi tu, è la 27esima edizione. Una volta agli inizi preponderante era il concorso con i film recenti, poi per le note difficoltà che hanno un po' tutti i festival di reperire cose inedite, cose anche di qualità medio-alta, il festival si è un po' trasformato, si è aperto alla storia del cinema, quindi organizzando delle retrospettive tematiche dedicate ad autori o a periodi della storia del cinema, insomma cose anche corpose, fino a a fare delle proposte molto, molto variegate, molto differenziate, che appunto come negli ultimi anni tenessero conto un po' anche degli sviluppi delle tecniche digitali e quindi si aprisse un po' anche a queste esperienze. Allora, quest'anno facciamo anche, hai già fatto un po' una panoramica di quello che era in programma e vediamo un po' sezione per sezione quali erano le pellicole e gli autori che avete scelto per questa edizione? Sì, la retrospettiva Carol Reed, che è un po' il pezzo forte del programma del festival, come ogni anno le retrospettive dedicate appunto a autori importanti, è una retrospettiva a nostro parere interessante perché di Carol Reed si occupa più che altro della produzione degli anni 30-40, che è quella meno nota e che invece è anche la più interessante, e che se poi si frammischia anche con le produzioni più importanti, i tre film tratti dai libri di Graham Greene, però ecco, hanno potuto far conoscere al pubblico un autore che non si è occupato solo di film di spionaggi o cose del genere, ma ha frequentato diversi generi, dalla commedia. Ieri per esempio sono viste due commedie molto divertenti, al dramma psicologico, al dramma sociale, insomma un autore molto, molto versatile, con una formazione, un percorso anche stilistico, artistico, appunto ai più sconosciuto, e quindi è stata una scoperta anche per il pubblico molto, molto importante. Un'altra proposta che ha riscosso, che sta riscuotendo un successo che va al di là delle aspettative, è la personale dedicata a Claire Denis, questa regista francese che ormai ha una carriera ventennale, circa 10 film al suo attivo. Claire Denis tra l'altro è arrivata ieri a Bergamo, oggi incontrerà il pubblico, e ecco, anche questa è una proposta che sta ricevendo un'approvazione molto alta, soprattutto perché è un'autrice che si occupa del presente e del contemporaneo, delle differenze, dei confronti anche etnici, culturali diversi, e quindi è molto molto attuale, probabilmente il pubblico la sente molto molto vicina. È straordinario l'omaggio a Bette Davis, con 7 film restaurati dal British Film Institute. Ieri abbiamo visto un capolavoro di sceneggiatura e di costruzione come Now Voyager, e poi abbiamo visto i due film di William Wyler, The Letter, che è uscito in italiano con il titolo di Ombre Malesi, e Jezebel, La figlia del vento, i primi due giorni. Quindi anche questa è stata un'idea felice da proporre al nostro pubblico. Bene. Volevo dirti, volevo chiederti per questi 4 giorni che rimangono, cosa c'è in serbo? Ma in serbo ci sono appunto ci sono ancora 3 film della Denis, tra cui l'ultimo, sì, 35 Room, che chiuderà la serata ufficiale del festival, che è un film che ha riscosso molto apprezzamento da parte della critica, è l'ultima edizione di Venezia. Sì, abbiamo ancora 4-5 film di Bette Davis, perché poi ne abbiamo aggiunti degli altri che chiuderanno la giornata di domenica. Carol Reed, anche quello, continuerà fino all'ultimo giorno. Domani si conclude il concorso con un interessante film rumeno, assolutamente inedito in Italia, e poi si chiuderà anche questa sezione che abbiamo inserito quest'anno, Frontiera, che sono una rassegna di film, arti visive, narrazioni, insomma, che tra l'altro questa è una sezione che poi continuerà anche dopo il festival. Oggi presentiamo Lettre à la prison, martedì avevamo presentato Harlan County, mitico film documentario degli anni di Barbara Coppola degli anni 70, e anche questa sezione chiuderà nella giornata di sabato. Ci sarà la premiazione dei film in concorso sabato sera, e poi domenica chiuderemo con alcune proposte di repertorio. Mi interessava questo discorso del festival, che in qualche modo prosegue al di là del termine di chiusura del 15. In che modo ci saranno? Sì, allora noi abbiamo altri 2 luoghi dove appunto sviluppiamo questo progetto di Frontiera, che sono 2 spazi espositivi, uno di tradizione che utilizziamo già da 2-3 anni, che è la Porta Sant'Agostino, dove c'è una bellissima video installazione di un'artista inglese, Anna Collins, e un altro spazio che sta recentemente da poco aperto al Comune di Bergamo, che presenta altre due installazioni di un regista cinese e di un regista egiziano. E poi sempre alla Porta Sant'Agostino ci saranno alcune proiezioni, tra cui il mitico Milestones di Robert Kramer, che in un certo senso chiuderà lì alla porta quella che è la parte cinematografica appunto di questa sezione molto più articolata e molto più appunto con proposte anche differenziate. E ecco, poi un'altra cosa che mi premeva sottolineare e evidenziare è questa rassegna del documentario che si chiama Visti da Vicino, che l'anno scorso avevamo fatto appunto come esperimento con proiezioni pomeridiane, sì. E visto appunto anche la risposta del pubblico, l'abbiamo allargata anche alle proiezioni serali al Cinema Capitol. Sono documentari che provengono più o meno da tutta Europa e anche questa sezione sta appunto avendo una risposta per noi molto lusinghiera, sì, da parte, sì, del, sì, pubblico, da parte di molti registi che vengono qui a presentare i loro lavori e che quindi creano anche un momento di riflessione, di confronto, sì, su questo genere di produzione. Oh, quello che mi stai dicendo per noi è un po' una felice conferma, perché rispetto al documentario di cui ci occupiamo sempre con piacere, c'è un grosso fermento. Ci sono, ci sono un sacco giovani, di produzioni, un sacco di festival e di rassegne anche in sale, sì, d'Essé, sì, che si occupano appunto proprio del documentario. Sì, sono giovani autori, sono documentari, noi siamo più portati appunto al documentario di ricerca o anche creativo a volte, che mischia un po' realtà e finzione. Comunque stiamo veramente vedendo delle cose molto molto interessanti. Angelo, in chiusura diamo anche il sito di riferimento per chi volesse consultare il programma. Sì, il sito è www.bergamofilmmeeting.it e lì si trovano tutte le informazioni sul programma e le informazioni che man mano diamo al pubblico per gli eventi, per le cose che succedono quotidianamente. Bene. Trovate tutto su questo sito. Bene, allora un in bocca al lupo per il finale, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie anche a voi, grazie. Ciao. Angelo Signorelli, direttore della 27ª edizione del Bergamo Film Meeting, in programma ancora in pieno svolgimento, era dal 7 al 15 marzo, quindi ancora 4 giorni di programmazione. Buon pomeriggio a Patrizia Salvatori, bentornata. Grazie, buon pomeriggio anche a voi, grazie. Ormai sei quasi una redattrice, diciamo. Praticamente io potrei essere con voi tutti i pomeriggi del giovedì, però questo mi fa piacere perché vuol dire che siamo tutti in sintonia, insomma. Sì, sì, sì. Ecco. Allora, al Cineclub Alphaville questa volta è la volta del documentario. La rassegna si intitola Cinema del Presente, dal 12 al 14 marzo. Dici un po'. Sì, allora, come avete potuto notare, visto che io sono spesso insieme con voi alla Fionda Rossa, si cambia genere, nel senso che cambiamo di settimana in settimana o di quindicina in quindicina la prospettiva filmica, no? Cerchiamo di abbracciare un po' a 360 gradi quello che succede e quello che è già successo. Questa di questa volta, Cinema del Presente, è un'opportunità di far vedere a tutti, insomma, gli associati e spero a tutti gli altri, un piccolo gruppo di documentari proprio contemporaneissimi, tra l'altro, che sono stati girati tra il 2007 2007 e il 2008 da alcuni giovani autori che con il sistema del documentario hanno voluto in qualche modo appunto farci notare, sottolinearci alcuni dei problemi e delle tematiche che in qualche modo o non si riescono a risolvere o sono in via di finta risoluzione, ovviamente, dunque è meglio rifletterci, pensarci, oppure addirittura sono assolutamente sconosciute alla maggior parte delle persone. Mm-hmm. Però iniziamo questa sera con un documentario che obiettivamente è meno, tra virgolette, difficile, meno, come dire, meno serioso da un certo punto di vista, anche se contiene una grande, diciamo, un grande insegnamento, che è il documentario che tra l'altro è stato selezionato per i David di Donatello, ma quando noi l'abbiamo scelto non lo sapevamo, Cinema Station via Selvi 72. Si parte con questo documentario stasera, è un documentario appunto più, tra virgolette, giocoso, che però ha un fondo, diciamo, anche di amarezza, perché in realtà narra la storia in prima persona, che poi ci sarà lui, di questo sorta di gestore di videonoleggio che però in realtà poi ha trasformato il videonoleggio in ben altro, e cioè praticamente è diventato una sorta di cineclub, sì, per tutti i periferici come, come di Ponte Mammolo, e che poi alla fine grazie a lui invece hanno cominciato a guardare la realtà e anche l'arte da un altro punto di vista. Purtroppo, sì, ahimè, poi il videonoleggio è chiuso e di tutto questo si parla in questa esperienza appunto documentaristica dei nostri cari amici del Detour, che sono gli autori appunto di questo documentario, che stasera staranno con noi. Ah, bene, e li sentiremo tra poco, perché loro hanno un'altra rassegna per marzo sull'avanguardia degli anni 20 e 30. Lo vedi? Lo vedi che i cineclub, io vorrei fare un appello, i cineclub sono importantissimi, non solo a Roma, dappertutto, perché riescono a veicolare, come tutti insomma un po' sappiamo, però mi piace sottolinearlo di nuovo, riescono a veicolare immagini del passato, del presente, contemporanee, che se non ci fossero i cineclub dove sarebbero, sì, dove sarebbero ospitati? Ecco, questa è la domanda. Comunque, invece vado avanti su domani, sì, vai, perché non vi voglio rubare ulteriore tempo. Domani invece no, domani c'è un documentario proprio di quelli, come dire, insomma, da battaglia, insomma, per chi vuole fare la battaglia. Si chiama Oil, è un documentario di Massimiliano Mazzotta, che è presente anche lui ad Alphaville, ed è un documentario che invece ci farà in qualche modo vivere da vicino questa strana storia del paese di San Rocco in provincia di Cagliari, che da sempre è, come dire, terra di un'azienda petrolchimica che in qualche modo, non dico soltanto disturba, ma insomma crea forti disagi ai cittadini, una storia che non tutti conoscono e che Massimiliano insomma ci ha documentato personalmente, e poi appunto domani sera sarà con noi per spiegarci bene anche come ha fatto, perché anche questa è una delle domande che insomma io gli porrò domani sera. Allora ce lo saluti, perché è stato anche nostro ospite sempre per parlare di Oro. Me l'ha saluto sempre. No, ti ho detto che c'è sintonia, Federico, qui c'è un'enorme sintonia tra la radio, Federico, il cineclub, tutti noi, insomma, veramente, questo mi fa piacere, almeno in questo siamo vicini e sodali, sì, insomma. Sì. E poi no, l'ultima cosa che volevo dire di questa piccola breve rassegna sul cinema del presente, sui documentari, è questi due documentari che faremo vedere sabato, che sono comunque interessantissimi. Il primo è Ma la Spagna non era cattolica, il secondo è Io sono un cittadino. Sono due documentari di Peter Marchas, che tra l'altro è stato ospite nel Festival del Cinema di Roma, sempre con Alphaville, nella sezione Altro Cinema, quella dedicata ai cineclub. Mm-hmm. Io ripropongo Ma la Spagna non era cattolica perché mi sembra un punto di vista tutt'oggi, come dire, interessantissimo, su vicende che non si sono per nulla né toccate, sì, toccate forse qualche anno fa, due anni fa, ma poi del tutto abbandonate rispetto appunto alle unioni, di fatto e via discorrendo, e ai punti di vista diversi tra la Spagna e l'Italia. Sì. E poi l'altro documentario, quello che finirà questa breve rassegna, Io sono un cittadino, invece è un documentario dove appunto la nostra figura, l'essere cittadino oggi rispetto alla politica che ci circonda, un po', come dire, ci lascia, posso dire, basiti. Ecco, questo è il documentario. Sì. Se Peter riuscirà a raggiungerci, sarà per non piacere, perché è un caro amico, gli vogliamo bene, altrimenti vuol dire che ci raggiungerà comunque in altre rassegne, e comunque noi il sabato proiettiamo tutti e due i suoi documentari. Bene, allora Patrizia, noi aspettiamo sempre tue nuove. No, intanto per veramente vi ringrazio, perché mi fa molto piacere, perché siamo appunto un gruppo molto vicino negli intenti, dei punti di vista, eccetera. E questo è metaforicamente anche il linguaggio del cinema, no? Partire con un punto di vista ed essere tutti o sì o no, ma comunque insomma tutti di fronte allo schermo, quindi mi fa molto piacere che ci sentiamo presto, insomma. Un abbraccio anche a te, ciao. Buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio a voi, ciao. Patrizia Salvatori, presidente del Cineclub Alphaville in quel del Pigneto. Oh, per contattarci il telefono 06 491750, ma più facilmente la mail visionari@ondarossa.it oppure il fax 06 44 63 616. E poi vi ricordo ancora la scaletta sul sito ondarossa.info. Andiamo avanti con gli ospiti. Antonio e Torre del Cineclub de Tour, eccoci qui. Ciao Federico, come stai? Bene. Si procede con le nostre iniziative. Sì. Sentivo prima l'intervista con Patrizia, mi verrebbe da dire è tutto magna, perché ci conosciamo, in realtà quasi siamo di fame. C'è poco da mangiare. Si parlava del documentario sul videonoleggio. Esatto, poi appunto tornando al magno, sono uno degli autori, quindi va bene, comunque gran cosa che resistono ancora i cineclub, per quanto appunto sia dura andare avanti con le iniziative che poi sono indipendenti, sono promosse giusto per da una passione vera, nient'altro, insomma, perché non abbiamo nessun tipo di committente che ci dà qualcosa per realizzarle. Sì. E niente, vabbè, io appunto penso che mi avrei chiamato per questa rassegna che parte da domani sera al Cineclub de Tour in Via Urbana 47A. Che è appunto orientato verso un percorso che in realtà sarà più lungo. Abbiamo cominciato a parlare di storia dell'avanguardia anni 20 e anni 30, in realtà poi proseguirà ci auguriamo di riuscire ad arrivare fino ai giorni nostri, perché vuole essere un racconto per esperienze cinematografiche non solo di rappresentanti dell'avanguardia, ma anche andare alla ricerca di lavori sperimentali fatti da autori riconosciuti magari come registi convenzionali che si sono dedicati alla sperimentazione con qualche esperienza. Sì. Quindi insomma questo sarà cadenzato circa ogni venerdì a partire da venerdì prossimo. La prossima data poi sarà il 20 di marzo, il 27 marzo, e poi torniamo ancora ad aprile finché appunto il Le Tour sarà ancora vivo lì in Via Urbana, perché forse saprete che purtroppo dovremmo sloggiare per via di una enoteca che dovrà prendere il posto del Le Tour, insomma. Quindi si spera di riuscire a rinascere in un altro posto. Sì. E quindi continuare anche con questa iniziativa. Per dire due parole. Beh, è qualcosa più di una speranza, no? Diciamo, insomma, non lasciamo nel. No, assolutamente. Sì. Però questo poi è un'altra storia. Questa parliamo è un'altra magari storia, della rassegna. Sì. Domani la programmazione è orientata quasi per il 50% alla produzione cinematografica di Man Ray, che come tutti sappiamo, oltre ad essere un importante fotografo, ha sperimentato molte tecniche, ha collaborato con Duchamp e quindi ha inventato dei nuovi linguaggi, dei linguaggi appunto filmici. La cosa straordinaria è che ancora vedendoli oggi, dopo quasi un secolo, restano comunque sorprendenti per come invenzione visiva. Oltre a quello ci sarà un'opera americana, che è un breve film, un cortometraggio di 13 minuti di Robert Florey e Slavo Borkatic, che si chiama, tradotto in italiano, è Vita e morte 9413, un extra Hollywood, che è una un film di avanguardia, però è anche un film politico, tutta l'avanguardia è anche politica perché nasce un po' per sovvertire i canoni tradizionali, ed è una critica al sistema, a Hollywood. Pensiamo che è un film del 1928 e c'è già uno sguardo cattivo, sarcastico nei confronti del, come dire, del capitalismo hollywoodiano, molto interessante, un film che hanno sostenuto tra l'altro anche Chaplin o altri importanti nomi del cinema, è una chicca non indifferente. E poi insomma la rassegna comprende tantissimi nomi difficili, appunto non avevo neanche sufficiente tempo per nominarli, però sì, insomma stiamo dando un'idea, certo. C'è anche qualcosa di Ori Stevens, addirittura di Orson Welles, ci sono delle piccole chicche che vale la pena di riscoprire. Beh, insomma, questo in linea di massima. Poi quello che sarà il percorso successivo sarà anche quello di dare spazio ad autori più conosciuti, che non tutti sanno che hanno realizzato appunto dei lavori sperimentali, dei lavori d'avanguardia. Insomma, la ricerca del linguaggio a volte, come dimostra poi questa rassegna, si può anche applicare al cinema narrativo, non si tratta solo di cinema astratto, ma si può dare anche un linguaggio sperimentale ad un racconto. Questo succede in diversi film, domani sera in particolare in Melly Montan di Dmitri Kirsanov, che è un film del 1926 prodotto in Francia, che è un racconto però ha una struttura assolutamente di ricerca. Questo è importante, no? Senti, difficile com'è concentrare insomma, in poche parole quello, sì, che è una segna molto strutturata. Al Detour daremo comunque degli approfondimenti, delle copie stampate, appunto di approfondimenti su ogni singolo film, in modo che di lasciare anche qualcosa di cartaceo agli spettatori. Sì, senti, ti volevo dire, come avete organizzato questi incontri del venerdì? Nel senso, sono serate piene, colme, nel senso a minutaggio, queste opere che arco temporale coprono, insomma? Ma stiamo entro le due ore, tra l'ora e mezza e le due ore di programmazione. Sì, sì, sì. Abbiamo preferito non affrontare questo minutaggio, anche perché soprattutto per chi vuole magari scoprirlo per la prima volta, o comunque vuole approfondire questo tipo di cinema, secondo me va calibrata anche la produzione, sì, no? Sì, quindi sì, sì, sì. Anche io mi sono prefisso di fare anche una pausa a mezza serata, perché comunque è necessario metabolizzarla nel modo giusto, sì. È una produzione impegnativa, sì, sì, sì, dello sguardo e tutto il resto, insomma. E come li avete accostati l'uno all'altro i titoli? Beh, questo è avvenuto in maniera abbastanza random, nel sì. senso che bisogna anche attraverso ricerche effettuate su internet, attraverso fonti che chiaramente a cui dobbiamo attingere per poter offrire appunto un tipo di programmazione. Mm-hmm. Ok. Senti, per saperne di più c'è il sito? Sì, il sito è cinedetour.it, trovate la programmazione, trovate le informazioni soprattutto sulla programmazione di domani sera, approfondimenti su ogni film, e poi nei prossimi giorni uploaderemo anche per il resto della rassegna il materiale informativo. Insomma. Anthony, ti ringrazio e alla prossima. Federico, grazie. Un abbraccio, ciao. Anthony e Torre del Cineclub Detour per la rassegna La storia dell'avanguardia anni 20 e 30, che parte domani 13 marzo, e poi ci sarà anche la seconda puntata il 20 marzo, sempre di venerdì, ma questa già è un'altra storia, magari ne riparleremo nella prossima puntata di Visionari. Continuiamo. Thank you. pomeriggio ad Andrea Ciacci dello Spazio Sociale, 100 celle aperte, eccoci qui. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Allora, per parlare con te della rassegna che avete organizzato, parte domani 13, venerdì 13 e arriva il 27 marzo, dal titolo Spariti, di cosa si tratta? Sì, beh, l'idea non nasce ieri, è una rassegna che in realtà vuole dare visibilità a film che ne hanno avuta poca, che hanno avuto censure, non distribuzioni, che hanno avuto una vita difficile, diciamo così. Sì. Abbiamo già fatto noi in passato nel nostro spazio film di questo tipo, questa volta abbiamo deciso di farne una rassegna, di fare tre appuntamenti, per adesso tre, poi vedremo. E si tratta appunto di film scomodi, nascosti, che hanno avuto vita difficile, questo è di fondo. Il primo film domani sera, per esempio, è Bota Provenzano, un film che racconta una campagna elettorale fatta per la mafia, quindi una provocazione che ha subito già in fase di produzione delle difficoltà, insomma, di riprese, di vita, di, e poi anche di distribuzione. Ecco, questo è il primo film di domani. Sì. Spariti nasce con questa idea, insomma, siamo un piccolo spazio che si piglia un po' la libertà di far vedere film che non trovano visibilità, insomma, questo è di fondo. Oh, come spazio sociale io lo sto sentendo di recente, ma da quando è che è attivo? Ma noi siamo in realtà, nasce lo spazio come comitato di quartiere, sì, nel 1994 da un'occupazione di cittadini del quartiere, appunto di Centocelle, e nasce nel 94, poi nell'ultimo anno ha cambiato nome perché poi in realtà lo spazio è diventato un po' un'altra cosa rispetto a quello che era prima, appunto, e che è un comitato di quartiere classico. Lo spazio fa cinema, fa musica, fa corsi, fa anche politica di quartiere, ci siamo occupati di questioni che riguardavano Piazza dei Gerani, ma anche altre cose, il parco archeologico, insomma è uno spazio che si occupa di varie, sì, di varie cose, sì, di, sì, di, sì, sociale, di politica. E quindi il cinema già era attivo, quindi non già prima di questa rassegna? Sì, mm-hmm. Sì, sì, sì, il cinema era attivo. Noi l'anno scorso, per esempio, sempre su questa onda, diciamo, di sbeffeggiare un po' la censura, avevamo fatto il film di Silvia Luzzi e Luca Bellino, quello su Chavez, il film comprato dalla RAI e poi mai mandato in onda, quando noi abbiamo è uscito adesso in DVD. Sì, è uscito adesso in DVD, sì. Dopo anche quello una vita molto complicata e difficile, perché politicamente non allineato né da una parte né dall'altra. Quando noi avevamo visto, insomma, questa storia, conoscendo poi sono amici sia Luca che Silvia, ci siamo presi la libertà appunto di proiettarlo l'anno scorso, ma era successo anche l'anno prima con un film americano che era arrivato ad essere candidato agli Oscar, era quello che raccontava la storia della pedofilia in America, del Deliver Us From Evil, un film che in Italia non era stato distribuito, noi ne avevamo comprato una copia, tutto titolato a nostre spese, lo avevamo fatto vedere, insomma, mm-hmm. Questa è un po' la nostra, ci piace fare cinema anche così, non troppo allineato, insomma, ce ne sono tanti di spazi a Roma che fanno cinema, però forse manca un po' la voglia di rischiare qualcosina, questo lo dico anche un po' in maniera autocritica, insomma, mm-hmm. Non è facile, si capisce perché, però visto che ci si può prendere poi a volte delle libertà del genere, perché non farlo, insomma. Sì, questi sì. Tre film che vediamo, il Bota Provenzano, Code di Lucertola e Penelli, sono tutte e tre, dal mio punto di vista, ottimi film, ma non sono mai passati a Roma, per esempio, nessun cinema, nessuno spazio sociale, nessun cineclub di nessuna natura, insomma. Mm-hmm. E questo è un po' emblematico, insomma, sì, per sì. Far capire anche la vita difficile. Anche se devo dire che rispetto ai documentari e rispetto, insomma, a rassegne, ultimamente sto notando anche a Roma stessa, insomma, un interesse più acceso, ci sono iniziative, infatti ne stiamo anche parlando da diverse settimane da questi microfoni all'interno della trasmissione, insomma, tra cineclub e spazi sociali, insomma, si muove qualcosa. Bene, bene, bene, ma questo è assolutamente un bene, anche perché insomma, non si parla di guadagnare chissà quali soldi facendo documentari, ma spesso lo si fa proprio per un impegno sociale, politico, culturale, chiaramente. Andrea, facciamo anche un cenno alle altre due opere che seguiranno? Sì. Sì, la seconda, quindi iniziamo domani, venerdì 13 marzo dalle 8:30 alla proiezione con Vota Provenzano. Il secondo appuntamento è per giovedì 19 marzo, sempre alle 20:30, con Code di Lucertola, film di Valentina Giovanardi che tratta l'aspetto degli ospedali psichiatrici a oltre 30 anni dalla legge Basaglia. Quindi Valentina è stata nostra ospite anche... per parlare proprio di Code di Lucertola, Bene. E poi chiudiamo questi primi tre appuntamenti con Feltrinelli, che è un'opera a mio avviso straordinaria di Alessandro Rossetto, uno dei maggiori documentaristi italiani, sull'eredità lasciata dalla morte di Gian Giacomo Feltrinelli, eredità pesante dal punto di vista politico, culturale, sociale, e lo fa in maniera veramente elevata, e non si capisce bene perché un film del genere, per esempio, al di là dell'autocensura fatta proprio dalla Feltrinelli, che lo ha prima prodotto e poi mai distribuito, non si capisce perché per esempio una RAI, un servizio pubblico, non decida in qualche modo di dare visibilità a un film del genere, che è veramente un film importante, insomma. Questo venerdì 27 marzo. Sì, mi ricordo che fu presentato all'Accademia di Francia, pensa, neanche in una sede pubblica qui a Roma, insomma. Sì, in effetti il film è stato proiettato probabilmente in spazi come il nostro, se non sbaglio a Genova, a Bologna, però insomma in Italia si è visto veramente poco. Noi anche quello lo abbiamo comprato via internet, perché si trova in Svizzera e in Germania distribuito, ma non in Italia, insomma. È un film assolutamente da vedere, per ovvi motivi, insomma. Bene. Senti Andrea, ci sentiamo prossimamente, speriamo di averti nuovamente qui per altri titoli, altre rassegne. Assolutamente, grazie dello spazio. Un abbraccio, ciao. Ciao a tutti. Pomeriggio a Savina Neirotti dell'Alba International Film Festival. Eccoci qui. Ciao a tutti. Come stai? Bene, grazie, benissimo. Allora, dal 17 al 22 marzo cosa proporrete? Beh, ci sono tante cose che avvengono ad Alba. Innanzitutto un concorso lungometraggi per opere prime e seconde da tutto il mondo, è molto molto interessante. Una rassegna questo concorso, tra l'altro, verrà assegnato un premio da 10.000 euro al film vincitore e una giuria popolare guidata dal regista Marco Ponti. Sì. Poi abbiamo una rassegna, Existenze, che è una rassegna di film sul tema della passione, dei legami, con ospiti dal mondo non solo del cinema, ma della scrittura, e varie personalità che discutono di film legati al tema a seconda di quello che a loro è più vicino. Allora abbiamo tra gli ospiti Gherardo Colombo, abbiamo lo scrittore Francesco Piccolo, Domenico Starnone, personalità diverse che hanno tra l'altro scelto e presentano il film. Ancora una rassegna sul Melò, dedicata a Stahl, un regista degli anni 40, ha fatto dei film bellissimi e molto abbastanza sconosciuti in Italia. Ancora una rassegna dei Have a Dream, dedicata alla passione politica e civile tra Italia e Stati Uniti, in questo momento in cui sembra che lì la passione politica si stia, diciamo, in qualche modo rinvigorendo. Che cosa succede invece in Italia? Lì abbiamo anche due tavole rotonde tra protagonisti sia del mondo dello spettacolo, ma anche giornalisti e politologi, per discutere di questa situazione. E c'è ancora molto altro, ma non so se ho tempo. Vai, così mi sembra che vai veloce e sei esauriente sì. Anche se sintetica, insomma. Ecco, perché la cosa bella di Alba è che un festival, intanto è la sua 8ª edizione, sì, che punta molto sulla ricerca esistenziale, quindi su un rapporto tra come può il cinema anche avvicinare l'uomo alla sua umanità, essere uomo, essere anche spirituale, quindi ha tutta una connotazione un po' filosofica, sì, fin dalle sue origini, sì, sì. E quindi per questo noi ogni anno affrontiamo questi temi. Ma un'altra caratteristica è che noi coinvolgiamo moltissimi giovani da tutto il mondo, anche perché si tengono ad Alba due corsi di formazione per sceneggiatori professionisti dedicati alle opere prime e seconde. Quindi ad Alba ci sarà contemporaneamente 80 sceneggiatori, vengono da 20 paesi di tutto il mondo, fanno la prima tappa di un corso che li porterà a scrivere poi alla fine 32 sceneggiature. Bene, questo speriamo. Tra l'altro qui adesso il tempo è bellissimo, di solito diventa un po' una festa perché ci si incontra tutti, pubblico, ospiti stranieri, ospiti italiani, diventa davvero una città invasa dal cinema. Poi se non sbaglio quest'anno in particolare ci sono tanti gli incontri e le tavole rotonde in programma, no? Sì, moltissimo. Poi abbiamo anche appunto masterclass per i giovani al mattino, allora per esempio Francesco Piccolo, Domenico Starnone parleranno della differenza tra romanzi e cinema, scrittura per il cinema, visto che sono sia scrittori che sceneggiatori. Abbiamo una tavola rotonda anche sul Melò, abbiamo un altro incontro che è molto importante sulla fiction televisiva, come il sentimento e la passione sono rappresentati nella fiction, in questo caso pensiamo alla soap opera per esempio, e anche qui discuteremo di che cosa sta avvenendo nella fiction italiana e qual è il futuro della fiction. Cerchiamo sempre di affrontare il tema che scegliamo da diversi punti di vista e con ospiti che non appartengono solo al mondo del cinema ma al mondo della cultura in generale. Bene Savina, allora per saperne di più, per dare un'occhiata, sì, al programma, c'è il sito. Il sito che tra l'altro racconta anche bene tutti i film di tutte le rassegne, così uno può scegliere davvero alla fine su 40 film che cosa venire a vedere ad Alba. E il sito è www.albafilmfestival.com. Benissimo, allora un abbraccio e in bocca al lupo e chissà magari ci si vede ad Alba. Grazie mille, vederci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Oh, e bentornato anche ad Antonio Valenzi, ci sei? Ci sono, oh. Ben trovati a tutti i visionari in ascolto, insomma. Come ti sento bene? E sarà il tempo, non lo so, insomma, è arrivata quest'aria di primavera. Una voce potente. Bene, allora Antonio, sì. Ci sono alcune cose al cinema, oltre alle uscite di questo weekend, di cui mi interesserebbe parlare con te. Sono preparato, vediamo. Allora, intanto cominciamo da quelle di domani, dalle uscite di domani, venerdì 13. Sì. Non so cosa hai visto tu, c'eri sicuramente a Clint Eastwood? Beh, sicuramente sì. Ecco. Gran Torino, che è titolo abbastanza evocativo anche per gli appassionati di automobili, chi ricorda il modello della Ford Gran Torino, quella che avevano Starsky e Hutch, sì, tanto per restare insomma nella cosa. Sì, ho visto Clint Eastwood, poi ho visto la matassa di Ficarra e Pigone, dopo il grande successo del 7 e l'8, torna questa coppia comica, e direi che insomma poi il bouquet delle uscite si concentra un po' su queste due uscite qui, con grande attesa per Ficarra e Pigone, perché l'altra volta ebbero un successo al di là di ogni aspettativa. Mm-hmm. Vediamo se bissano. Allora, invece per quanto riguarda Nemico Pubblico numero 1, l'istinto di morte, l'hai visto? Quello lì no. Purtroppo mi è mancato perché coincideva la proiezione per la stampa con la chiusura del mio giornale. Purtroppo sono solo Antonio e non Sant'Antonio, il dono dell'ubiquità ancora non ce l'ho. Allora, parliamo con te di Clint Eastwood e poi vediamo anche le cose già in programmazione che vale la pena segnalare, insomma. Sì. Vai. Beh, su Gran Torino è un film sicuramente in scala minore rispetto all'ultimo Clint Eastwood, non so se sei d'accordo, soprattutto in merito a non so, Million Dollar Baby, sceneggiato da Paul Haggis, lì c'era una grande firma della sceneggiatura, qui manca un po' quel mordente, così come manca lo stesso mordente di Mystic River, tanto per... Tuttavia, devo dire, Clint Eastwood con questo film... che è sicuramente un film contro il razzismo, come qualche collega ha giustamente notato, secondo me va anche un po' oltre. Il discorso verte più sul fatto che Clint Eastwood, avendo a che fare con questa comunità, diciamo cinese, perché non ricordo la pronuncia soprattutto di questa comunità asiatica, che arrivata in America perché aiutarono gli americani durante la guerra in Vietnam, sembra quasi un'assunzione di responsabilità dell'America nei confronti delle persone che ha coinvolto. Clint Eastwood, sappiamo benissimo da quale prospettiva parla Federico. Sì. Ma detto questo, quindi insomma, al di là del sottotesto che si può intravedere, c'è una cosa che a me colpisce molto del film, e cioè che Clint Eastwood ci dice anche quanto sia bello invecchiare. Mm-hmm. che insomma in Italia abbiamo personaggi che a 70 anni e passa vanno in giro a manifestare le loro doti amatorie e invece Clint Eastwood sta lì a dirci quanto è bello invecchiare, come si possa invecchiare bene con saggezza senza essere tromboni. Lo trovo... sulla sua veranda con il suo cane, con le sue birre. Esatto, e rimirando questa Ford Gran Torino di cui, ahimè, purtroppo nel film non si sente mai il rombo, perché è appassionato ne sentirà la mancanza. Sì. Un film anche molto delicato, molto poetico in qualche modo, molto romantico, crepuscolare. Io personalmente, da estimatore, ma sai, questo è un po' un pallino, ho trovato degli echi di Sam Peckinpah in questo film, ma insomma poi ognuno ci vede quello che vuole nei film, intendiamoci, nessuno di noi ha la verità in tasca. Bene. Ecco, poi non so, delle uscite che cosa possiamo dire? Allora, io proverei, non so se con te avevamo già parlato di Frost Nixon o è uscito dopo che ci siamo sentiti l'ultima volta. No, ne abbiamo parlato l'ultima volta. Ok, The Reader, The Wrestler, non so se ti suscitano qualcosa, se li hai visti. Assolutamente sì, beh, The Reader è un film importantissimo, quasi spiazzante per la sua importanza, perché chi non l'ha visto gli consiglierei vivamente di recuperarlo, innanzitutto perché c'è una Kate Winslet assolutamente magistrale, poi paradossalmente della coppia di Titanic DiCaprio è quello che ha fatto più notizia in questi anni, però l'Oscar non l'ha mai vinto, la Winslet sì, è arrivata a bomba. È un film che ci fa riflettere su tante cose, ci fa riflettere su come la Germania, su questo gap generazionale tra la Germania postbellica e la Germania che era stata sotto il regime nazionalsocialista, per cui insomma fa riflettere su questo conflitto emotivo generazionale con il guardarsi indietro, il tutto imbastito su una storia molto seguibile. Non mi è piaciuto molto, devo dire la verità, l'interpretazione di Ralph Innis, o Ralph Fine, adesso non so gli anglofoni più pedanti se vorranno bacchettarmi, che mi è sembrato un po' eccessivamente monocorde. Sì, sì, è vero, sono d'accordo. Ecco, un po' una faccia di pietra, per dirla alla con Buster Keaton. Però il film regge, il film tiene bene. The Wrestler, innanzitutto sono contentissimo che sia andato bene al botteghino, è il terzo migliore incasso della scorsa settimana, un film romanticissimo, sensualissimo, no? Paragone che mi veniva in mente guardando l'interpretazione di Mickey Rourke del personaggio e anche questa sovrapposizione tra la vita privata dell'attore con quella del personaggio Randy Ram Robinson, mi viene in mente la sensualità delle vite disperate dei personaggi di Paolo Conte, film che io, almeno siccome c'ero negli anni Ottanta, purtroppo, perché non è che siano stati il massimo come sotto molti punti di vista, l'ho trovato estremamente struggente. Poi mi ricordo a Venezia quando arrivò Mickey Rourke in conferenza stampa, ci fu un applauso lunghissimo. Io personalmente gli feci dei complimenti sperticati e lui non mi si filò proprio, cioè era proprio nel pallone, per cui evidentemente si aspettava molto da questo film, che gli ha dato anche molto, perché poi insomma ha vinto il Golden Globe, è arrivato alla nomination, all'Oscar, quindi The Wrestler è un film spiazzante e struggente nella sua semplicità, tra l'altro, tu l'hai visto? Sì. Non è un film complesso, non è una produzione ad alto costo, eppure va dritto al cuore, colpisce le corde del sentimento molto molto bene. Poi non, spiazza anche il regista, che ci aveva nei almeno due film precedenti abituati ad altro, insomma, qui tocca un po' di corde anche drammaturgiche un po' più solite. Sì, quello sicuramente. Attenzione, non gli ultimi due film, però i primi due film. I primi due, tu parli di Requiem for a Dream e Pigreco. E Pigreco, il teorema del delirio, è vero. Sì, perché poi Darren Aronofsky è quello di The Fountain. È vero. Chi è in vena di autopunizione può vedere anche The Fountain. Per cui, però no, The Wrestler è assolutamente fantastico. Certo, bisogna avere l'anima un po', come dire, un po'... è un po' per chi va alla sostanza delle cose, ecco. Bisogna un po' testosteronico come film. Senti, Antonio, per quanto mi è venuto in mente adesso a proposito di Germania, è L'Onda. Sì, L'Onda. L'Onda. L'Onda, film come l'hai complesso. Film è molto complesso. Io l'ho trovato estremamente interessante dal punto di vista sociologico della serie, questo esperimento, che tra l'altro è mutuato da un'esperienza reale fatta a Palo Alto in California nel 67, di questo però mi è sembrato un po' un bignami di questa esperienza, nel senso è concentratissima in questo cambiamento, è sembrato molto repentino. In che senso? Rispetto agli studenti e all'insegnante, no? In pochi giorni si crea questa trasformazione inquietante. Non so quello se sicuramente, andò proprio, cioè, così. Sì, quello sicuramente. No, in realtà l'esperimento durò più tempo e se ne andò sulla scala di circa un mese. Diciamo che per necessità cinematografiche probabilmente hanno condensato un po', e quello è una pecca nel film, perché si perde la verosimiglianza di quello che viene illustrato. Anche le dinamiche psicologiche, insomma. Sì, anche nelle dinamiche psicologiche non si può cambiare dalla sera alla mattina così come viene messo nel film. Detto questo, però, L'Onda, che si basa appunto su questo patto, no? Il docente che dice ai suoi allievi: diamoci delle regole, e su queste regole è come stabilire un regime appunto totalitario. Quindi si crea il patto, sembra quasi che il regista voglia dirci: signori, attenzione, quello che è accaduto può riaccadere. La disciplina e l'obbedienza. Disciplina e l'obbedienza, cioè l'obbedienza cieca delle masse a un demiurgo, che poi si chiami Adolf Hitler o Benito Mussolini o Stalin, questo è un altro discorso, però l'obbedienza cieca delle masse a un demiurgo che va a regolare le cose. Non so, onestamente, trattandosi di un film tedesco, non so se la morale è: attenzione, quello che è successo può riaccadere, oppure: signori, attenzione, di quello che è successo non buttiamo via tutto. Non vorrei, no? Per la miseria. No, c'è la parte finale dove lo studente dice: però non era poi tutto così negativo, capito, dell'Onda. Giusto, Antonio. Sì. Il dubbio, io sono il stato preso, che la morale possa essere stata hai capito. Beh, insomma, anche perché sai, la caducità dei modelli socio-economici che sono venuti dopo potrebbero indurre qualcuno nell'eterna tentazione di dire: se stava meglio quando si stava peggio. Siamoci attenti. Esatto. Ok. Bene, Antonio, ti ringrazio. Grazie e a te. Ti abbraccio e alla prossima. Alla prossima, un abbraccio a come te e no a tutti i visionari. Ciao. Perché ci sono, una speranza c'è. Ok. Ti abbraccio, ciao. Ciao Federico, ciao. Eccoci Annina, ci sei? Buon pomeriggio a tutti. Oh, vai. Come Gran stai? Torino viva per tutti, Gran Torino tutta la vita. Allora vai, comincia con Gran Torino. No, comincio e finisco. Basta, era tutto qui. Allora, è già un gran film, voglio dire, ce ne fossero, secondo me, perché veramente il grande Clint Eastwood, regista, attore, ci stupisce, non smette mai di regalarci delle perle che ci aiutano a sopportare schifezze, no? Pronto? Sì, ci sono Anna. Ah, non ti sentivo più. Sì, no, ti sento. Dicevo che insomma ci aiuta a sopportare le schifezze che imperversano sui nostri schermi. Vai. No, non sento più niente, non ho ritorni, come si dice, ritorno di cuffia. Io invece qui ce l'ho nelle casse, per cui ti sento anche con eco. Ah, ok. Basta, io devo dire, questa settimana è già uscito Watchmen, io non l'ho visto, quindi magari c'era qualcosa da dire su questo film. Ah, beh sì. Però io non l'ho visto, okay. Quindi voglio vederlo. Non ho visto il film di Piccioni, di Giulia, non esce la sera. Quindi mi riprometto di recupero, okay. Però appunto visto Gran Torino devo dire grande soddisfazione, okay. Per me. Non so se tu sei d'accordo. Sì, ne parlavamo adesso con Antonio Valenzi e diceva lui, e sono sostanzialmente d'accordo, non siamo ai livelli di Million Dollar Baby o Mystic River, però comunque secondo me, questo lo aggiungo io, Clint Eastwood è uno dei pochi classici rimasti in circolazione. Sì, ma è l'unico che riesce a dire le cose senza retorica, pur essendo insegnamenti profondamente morali, insomma, questa si chiama integrità, direi, no? Alla fine. Pronto? Sì, ci sono. Ah, ok, non sento risposte, mi sembra di parlare da sola. E quindi, no, dicevo, secondo me appunto è l'unione di un grande passionario e un grande pensatore, e un uomo che riesce a mettere in pensieri, in immagini, qualcosa di straordinario. Sì. La cosa che veramente trovo ignobile è come il Festival di Cannes abbia potuto dare a Clint Eastwood una palma d'oro ad onore, tipo alla carriera, adesso, tipo un paio di settimane fa, è stata annunciata, che gliel'hanno data così, no? Sotto banco, manco stesse per morire, non gliela vogliamo proprio tirare. Però, insomma, che senso ha, cioè, o gliela dai proprio durante il festival? Lui ha partecipato spesso, anche l'anno scorso, con Changeling, altro buonissimo film, e non lo capisco. Comunque, vabbè, grazie Clint che c'è e che ci regala queste cose. Non so se ci sono altre cose che tu mi vuoi chiedere rispetto a film in sala, uscite di cui non ho parlato. Allora, delle uscite, non so se, vabbè, Nemico Pubblico, vogliamo parlarne? Ah, sì, che l'abbiamo visto insieme, è vero? Sì. Io non so se era il caso di dividere due film, due parti di uno stesso film, perché Nemico Pubblico numero uno, mm-hmm, film francese che sta raccogliendo grandi consensi in patria, con Vincent Cassel, ricordiamo, vincitore del César come miglior attore protagonista all'ultima edizione dei César, che sono nient'altro che gli Oscar francesi, no? Come i nostri Davide Donatello. Ecco, lui interpreta questo personaggio realmente vissuto, che fu uno dei più grandi fuorilegge, assassini, criminali di Francia. Il film è stato diviso in due parti e verranno presentate, una esce appunto domani, l'altra invece sarà presentata tipo ad aprile dalla Eagle Pictures. Sì, due parti, perché comunque era versione televisiva, però non capisco perché non l'hanno ridotto ad una sola per il cinema. Ma magari anche no, va bene così, perché mm-hmm, poteva anche starci, però magari farle uscire più vicine, insomma creare una situazione per cui la continuità era rispettata, perché onestamente io so per certo che la seconda parte è più bella della prima, mm-hmm, ed è un po' brutto parlare di un film monco, cioè un film a metà, no? Eh sì. Quindi sì, un film convincente, perché è una storia così rischiamo di arrivare al cinema a puntate, insomma. Sì, ma ma è un po' come la storia di Che Guevara. Sì. Che esce in due parti, ma lì era stato pensato, quindi Soderbergh, no? Su Che Guevara. Però in ogni caso il film è interessante ed è la dimostrazione ancora una volta di come i francesi, allora levato gli americani che sono sopra tutti in varie spanne, i francesi siano forse gli unici in Europa che sanno fare un cinema di genere di un certo livello. Sì. E hanno una grande tradizione che è quella del polar, e quindi probabilmente si sono, insomma, veramente continuano questa tradizione con i flussi naturalmente oltreoceanici, eccetera, però sono bravi, e questo non, nessuno glielo vuole dare. Cioè, da noi oggi è sempre più difficile vedere qualcosa di genere convincente. Ricordo un pochino il tentativo di Michele Placido, Romanzo criminale, un film di rispetto, no? Mm-hmm. Però insomma è un po' un caso unico, e poi non era così tanto avvincente come questo, secondo me. Sì, sì, sì, sì, sì. Vuoi anche una certa preparazione diversa degli attori, che non significa che i nostri attori non siano bravi, ma sono semplicemente preparati diversamente al cinema. Mm-hmm. Quindi sono molto più teatrali i nostri attori, ecco, sì. C'è poco da dire. Comunque, questo è il mio, mio approccio al nemico pubblico numero uno. Okay. Da vedere, sì. Okay. Da vedere. Senti, invece... Però, ecco, se uno deve spendere i soldi, Clint Eastwood è tutta la vita. Cioè. Mm. Oh, rispetto a quello che è già in sala, con Antonio, per esempio, abbiamo parlato dell'Onda, di The Reader e The Wrestler. Non so se tu volevi... Ah, io non avevo fatto il collegamento. È vero, è vero, è vero. Allora no, io recupero. Beh, The Reader l'avevo già detto che non... Sì. Non mi aveva convinto. Parlo dell'Onda, film tedesco molto interessante a mio avviso. Mm-hmm. Di cui ho fatto anche, ho scritto diverse cose. Io non sto a parlare dell'esperimento perché credo che ne abbiate già parlato. Sì. Posso solo dire che esperimento nel senso legato al film, ok? Posso dire che anche quello, da un punto di vista cinematografico, è avvincente perché restituisce la suspense di quello che poi accade in questa classe, no? Attraverso l'esperimento dell'Onda. È ottimo attore, già Orso d'Oro anni fa, il protagonista che fa il professore. Posso andare a Berlino, intendo. Mm-hmm. In che film in quell'occasione? Sai, non che te lo ricordi? Devo andare a recuperare bene, qualcosa che ho scritto io, ma adesso non è il caso di fare troppo. Vabbè, comunque è stato Orso d'Oro, io. Eh sì. Invece, allora, parliamo di The Wrestler. Allora, devo rifare tutta la mia telefonata perché mi ero dimenticata che non avevo parlato. Allora, se ci sono doppia paghetta settimanale per andare a vedere due film, l'altro film è The Wrestler, da vedere. Senza dubbi, cioè è un obbligo andare a vedere The Wrestler, è meraviglioso, secondo me. Perché è oltre a essere il grande ritorno di Mickey Rourke, con tutta una serie di elementi personali e professionali che lo caratterizzano, e non voglio dire troppo perché è da vedere, c'è nel film stesso una serie stratificata di tematiche così importanti dei nostri tempi, benché il film sia ambientato negli anni '80, che ci dà una chiave di lettura della nostra coscienza socio-civile, non so come dire. Mm-hmm. No? Mm-hmm. dell'appartenenza al mondo occidentale, ecco, dei nostri tempi. Mm-hmm. Ed è fondamentale, c'è una rilettura del mito. Mm-hmm. Nel senso moderno del termine, nel senso occidentale del termine. Quindi un film da vedere, e ne parlo in termini universali, poi se vogliamo calarci più in realtà contestuale, è un film profondamente americano, il regista Aronofsky, già regista Requiem for a Dream, no? Sì. Rivelazione, ma anche deludente per La Fontana come si chiama? The Fountain, sì, comunque non mi ricordo in italiano. Sì. Comunque. E Aronofsky, regista newyorkese, visionario, così, secondo me è riuscito veramente in un intento difficilissimo di tenere un equilibrio rispetto a questo genere di lavoro. Perché molto americano? Perché siamo nell'epoca della riorganizzazione politica, sociale, storica, filosofica, no? Del cuore dell'Occidente, cioè gli Stati Uniti, e secondo me questo film fa vedere queste ombre, no? del mito americano che può avere, può risorgere purché passi attraverso una serie di sofferenze, insomma. È importante questo film. Bene. Bene Annina, allora lasciamo spazio pure un po' a Valerio che si era segnato. Ma anche no. Noi ci si vede in sala e ci si sente in diretta qui giovedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Anche a te. Ciao. E allora niente Valerio, per cui magari lo sentiremo la settimana prossima. L'appuntamento è per giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema con visionari. Tutte le informazioni potete trovarle sulla scaletta del sito, nel sito della radio, ossia www.ondarossa.info, per vedere gli ospiti di questa puntata, le uscite di domani venerdì 13 marzo, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione e poi i link per dare un'occhiata a interviste, conferenze stampa, recensioni e poi anche i nostri suggerimenti per quanto riguarda i film sul piccolo schermo televisivo nella programmazione settimanale. Buon proseguimento, ci sentiamo giovedì prossimo. We'll be right back.